Come sai ti stavo pensando adesso, come sai non faccio altro un po'. Nel silenzio più fondo e in ogni momento avrei tanto bisogno di te, la stagione più bella è l'amore, lo sai, e a me piace ricordarla con te. Tu che adesso non sai, tu che adesso non sei, qui seduta a sentirla con me, qui seduta a sentirla con me. Ho già pianto per te e già pianto per me mille notti e mille notti ancora a parlare di te, a cercare di te un'immagine. È l'amore che conta e non questa vergogna che ho di non dimenticare. In un giorno così non saprei neanche dove nascondermi. Che differenza c'è tra amare e farsi male? Che differenza c'è? C'è tra amare e farsi male, che differenza c'è? Come sai ti stavo aspettando adesso, come sai non faccio altro da un po'. Quando il vento mi parla, quando il vuoto è tormento, avrei ancora bisogno di te. Di stagioni da qui ne ho sentite passare, io che il tempo l'ho saputo guardare. Non c'è niente che scorre senza mai devastare, non c'è un cuore che non morirà. Ho già pianto per te, hai già pianto per me mille notti e mille notti ancora a parlare di te, a cercare di te un'immagine. Yeah.